everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Under Oath on Do It Yourself Radio. Please call in your support. La regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Non delegare, partecipa! Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura! minuti primi. Comincio un po' in ritardo la nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo un po' di contatti, il sito della radio raggiungibile al www.ondarossa.info, dove poter ascoltare la radio oltre l'FM. Vabbè, ve la sveleremo più tardi, insomma, la scaletta presentata questa sera. Quindi www.ondarossa.info. Il numero di telefono 06 49 1750. Radio Onda Rossa, progetto nato libero nel 1977. Progetto che potete sostenere attraverso il sito della radio, quindi andando a cliccare su Sostieni. Nonché partecipare alle nostre iniziative. Ce l'abbiamo una sabato. Oppure attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185, Roma, San Lollo. I'm in the E l'inizio di trasmissione è volutamente lento. Insomma, prendiamo un po' di fiato perché tra poco non avremo il tempo neanche di respirare. Quindi sabato 17. Al CSOA ex SNIA di via Prenestina 173. Una serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi dalle 20:30 ci sarà una cena per poi proseguire con i concerti con Los Tres Altos e Scasso. E prima di passare a un po' di Sano Blaspit, gli Scasso con Vago Libero. È tornato a trovarci dopo qualche anno? Meno. No? Un annetto e mezzo più o meno, forse. No, forse di più. No, sì, forse un anno e mezzo. Vabbè, no, ce lo ricorda qualche manifesto qui. Lo vogliamo ricordare? Ce l'abbiamo alle spalle il concerto Benefit che abbiamo fatto per i Notav nel marzo dell'anno scorso. Bella serata. Una bella serata. Sì, andò benissimo. No, poi tra l'altro una delle prime volte che vi sentivo veramente. Cioè, infatti è stata la prima volta in cui abbiamo collaborato come gruppo, diciamo. Bene, bene. E questa sera ci è venuto a presentare un po' di cose, poi le sveleremo più avanti. Intanto cominciamo a conoscere Pompeo. Lo facciamo attraverso delle proposte, insomma, questa sera che ci ha portato. Con che cosa iniziamo? Allora, iniziamo con i CIB, che sono un gruppo, diciamo, che vive tra Sassari e la provincia di Sassari. Fanno power violence vecchia maniera, molto legato ai nomi storici come Siege o Infest, diciamo la prima ondata del power violence. Sono un gruppo che, come tanti gruppi sardi, non si è visto molto in giro per l'Italia, però sono veramente fra i più validi in circolazione e sono presenti su un disco che sto producendo, che spero esca subito, perché abbiamo avuto un po' di problemi con la stampa del vinile e dovrebbe arrivare nel giro di un mesetto. E loro si chiamano CIB e sono tutte persone veterane della scena, diciamo. Dai! Non abbiamo presentato gli altri due ospiti che ci sono venuti a trovare questa sera. Buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera. Insomma, ci parleranno più tardi e ci presenteranno il GoFest. Sì, purtroppo noi siamo quelli che collaborano con Pompeo a questo abominio di velocità folle che è il GoFest. Ci siamo incontrati per collaborare a questo progetto, ma tutto il resto è tra responsabilità esclusivamente sua. Bene, bene, quindi ci possiamo lamentare con Pompeo, tranquillamente. Per le lamentele ci sono gli SMS. Come? Per le lamentele ci sono gli SMS, immagino. Ah, tra l'altro, insomma, se avete domande, il 06 491 750, sempre lo stesso numero di telefono. Insomma, usciti su quale etichetta? L'etichetta si chiama Bad Feeling Records, sarebbe banalmente presa da un mio vecchio nickname che mi porto dietro da un bel po' di anni. È un'etichetta, cioè, fino a poco tempo fa praticamente inesistente. In un certo senso si potrebbe dire che è tuttora così, perché si tratta semplicemente di un'etichetta che finora ha fatto più coproduzioni di gruppi di amici, o ancora più banalmente dei gruppi in cui ho suonato e sono tuttora. E poi da qualche mese a questa parte mi... Ma quando hai iniziato con l'etichetta? Penso 2009. Però diciamo che fondamentalmente i primi 2-3 anni ho prodotto solamente i Test the Floor, che erano il gruppo con cui ho iniziato a suonare, diciamo, da quando vivo qui a Roma. Quindi fare un'etichetta per distribuire i propri prodotti, insomma, sì, una cosa, le proprie autoproduzioni. Una cosa abbastanza egoistica, diciamo, però poi abbiamo provato ad allargarci un minimo e da qui abbiamo iniziato a produrre qualche altro gruppo. Abbiamo fatto in Aid, per esempio, da Viterbo, uno split con gli Agatocles, che salutiamo anche se non ci sentiranno mai perché stanno in Belgio. E... Ma cioè, quanto è effettivamente facile fare uno split con gli Agatocles? Mediamente porta via un quarto d'ora di tempo, cioè, giusto il tempo. È... Cioè, loro ne fanno, penso, una settimana, credo, no? Sì, attenzione che poco tempo fa hanno registrato, che è una cosa che fanno spesso nonostante producano tanti dischi, però non so quelle canzoni che fine hanno fatto. Quali canzoni? Quali canzoni? Vabbè, noi proseguiamo con un'altra traccia scelta da Pompeo. Continuiamo con Blast Beat Over Italy, che è lo stesso progetto dal quale sono stati presi anche i CIB. Mettiamo Yanf da Palermo, grandi amici, salutiamo Totò e tutti gli altri, vediamo se ci stanno ascoltando. Che ci abbiamo pronto a seguire, allora, Pompeo? Vediamo, mettiamo gli Stalle Ipkiss, che sono un gruppo di La Spezia o di base in Toscana, e fanno anche loro Power Valence, perché questo disco è tutto dedicato al Power Valence e ai gruppi attualmente in attività, diciamo, in giro per l'Italia. Più o meno li comprende tutti quelli che sono in questo momento attivi. Quando uscì il disco? E online già da 3 mesi, materialmente il vinile è tutto pronto tranne il supporto fisico, sono pronte le copertine. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi di stampa, i dischi sono in stampa in Francia apparentemente, se ne perderà entro un mesetto, mi è stato promesso. Vabbè, allora un'anteprima forzata. Ascoltarmi Gimfest perché non passi. Insomma, ma invece cioè, prima dell'etichetta, prima di andare a suonare, come ti sei avvicinato a questo genere musicale? Diciamo che fin da ragazzino sono stato sempre affascinato dall'hardcore punk. Questo genere fondamentalmente non si tratta di nient'altro che un'estremizzazione di quel genere di musica, rischiato con delle venature che prendono anche da altri generi come il metal estremo, sempre in senso molto ampio così. E mi affascina il fatto che fosse un genere in cui era possibile dire tutto nel giro di pochissimi secondi, e in cui tutto fosse estremizzato dalle tematiche al tipo di suono, all'assoluta noncuranza per qualsiasi stilema, che sia una presentazione dal punto di vista estetico, cioè si tratta semplicemente di musica e basta. Infatti, cioè, anche vedendo i gruppi coinvolti in questo disco, cioè, c'è tutto molto, cioè, c'è molta varietà, cioè, tutti sono gruppi riconducibili a questo genere, però fra di loro non ce ne sono due in particolare che si assomigliano. Cosa pensi che lega tutte queste diversità? Beh, sicuramente il DIY, il do it yourself, perché semplicemente si tratta di gruppi che sono abituati ad autoprodursi, ad aiutarsi reciprocamente, che non contano sul booking quando si tratta di andare a suonare al di fuori della loro città, che suonano spesso spesso praticamente sempre in posti occupati, e senza che trattano tematiche di un certo tipo, che sono, vabbè, chiaramente sempre legate ad antifascismo, antisessismo, spesso animalismo, antimilitarismo e così via. Diciamo che sono tematiche che sono già care all'hardcore, ovviamente, però diciamo che qui vengono portate per certi maniere anche all'eccesso. Spesso poi molti gruppi hanno anche una tendenza a trattare certi argomenti con uno humor abbastanza nero, diciamo, magari con spirito dissacrante. Esatto, sì, e ci mettiamo anche noi in mezzo con i Getty Moshe, stessa cosa. Cioè, si tratta di un gruppo che apparentemente abbastanza, cioè, cazzeggia abbastanza nei testi, invece poi magari c'è qualcosa di serio, cioè. Per esempio, le prossime canzoni che vedo stai preparando trattano argomenti che sono abbastanza politici. La prima, Better Birth, è ispirata alla storia di una signora anziana che era sotto sfratto, e piuttosto, quando è arrivato il momento di essere sfrattata, ha dato fuoco alla casa piuttosto che lasciarla così. Comunque, tematica appunto della difficoltà di trovare alloggi disponibili per chi è in difficoltà economica. E quindi Better Burnt, meglio bruciata, esatto. Loro sono i Getty Moshe. Your life sucks. And so you break our balls. Che è tradotto, insomma, vabbè. La vita fa schifo e quindi vieni a romperci le palle, in pratica. un tema un po' legato alla frustrazione del fatto che Roma ha preso molto piede questa serie di associazioni, se vogliamo chiamarle così, come Retake o Roma fa schifo, che puntano tutto a mettere in luce questo presunto degrado della città e puntano tutti gli interventi di facciata, tipo ripuliamo i muri. Questa città non è sicura. Esatto, sì, gli immigrati ci rubano non basta il lavoro ma anche la sicurezza. Ora basta. Sì, assolutamente, 3000 punti esclamativi e uno, eccetera, così. Tutte cose. Insomma, beh, fate schifo, insomma. Sì, sì, decisamente. No, ma soprattutto parte dal fatto che l'assunto da cui siamo partiti è il fatto che comunque probabilmente si tratta di persone con una vita abbastanza triste e che sfogano le loro frustrazioni in questa maniera, cioè attraverso una facciata, ossia puliamo il muro, facciamo vedere che siamo utili alla collettività, quando invece i problemi sono ben altri. Vabbè, c'era mi pare, avevamo anticipato a microfoni spenti, un aneddoto legato a questa... Sì, un aneddoto legato a queste associazioni di populismo un tanto al chilo. Noi nel fare il GoFest facciamo tutto in DIY, compresa la promozione, facciamo tutto da soli, andiamo anche ad attacchinare noi e giustamente è piacevole passare tutta la sera da fuori ad attacchinare, magari molti lo sanno, e la mattina dopo passare davanti ai manifesti attaccati la sera prima con tanta fatica e trovarli belli belli strappati in pieno stile Retake su uno di questi bellissimi muri che loro sono andati a riprendere, a rimettere a nuovo, a ripulire. Sì, a ripulire, dando questo bel senso estetico alla città. Non so se hai mai visto che al posto di tag scritte o cose del genere, belle chiazze di colore, tutte di un colore diverso, il muro fa più schifo così alla fine. E no, niente, la cosa è che, come diceva Pompeo, questa gente che si focalizza su problemi puramente esteriori, quando poi si vanno a scontrare con realtà, tipo strappare i manifesti a noi, o tipo l'anno scorso che hanno avuto un forte battibecco con la strada perché gli hanno strappato tutti i manifesti del loro anniversario nel loro quartiere, quindi andando così a contrastare realtà che poi cercano di sconfiggere veramente un po' l'apatia, il degrado mentale di attività che c'è a Roma, che sicuramente non è la madre di tutti i problemi, però è un problema ben più serio di quello che può essere un muro zozzo, secondo me. Poi è questione di opinioni, noi la vediamo così. E ci stanno profondamente sul cazzo anche come GoFest queste persone, quindi ci uniamo ai Kate Mosh. Insomma, vabbè, poi oltre ai manifesti, insomma, ci avete anche qualcosa da dire e da fare questo sabato? Sì, questo sabato, senza entrare in contrasto con voi, lo faccio dire, passo la parola a Daniele, che cosa, i nostri impegni per sabato. Questo sabato c'è questo festival di musica veloce, estrema e diciamo scomoda, ci sono questi 12 gruppi tutti sul grind power violence e abbiamo per la prima volta 5 gruppi da fuori, abbiamo alcuni da diverso tempo che sono i Needful Things, un gruppo storico della Repubblica Ceca, grind dal 95, poi abbiamo con loro i Shiva Yoga, sempre cechi, inoltre questo sono i Scientist Down, che sono una delle glorie del fastcore della Germania, assieme ai Corrosive, che se Pompeo mi conferma sono penso il primo gruppo power violence europeo di sempre. Sì, insieme agli Jacobs, senz'altro. Sì, sì. Sì, sono attivi dall'86. Sì, sì, esatto, sì, sono nati quando ancora il termine sono power violence, prima ancora che il termine nascesse probabilmente. E hanno fatto ben due split con gli Jacobs, tra l'altro. Anche con gli Agatocles? No, c'è da dire che in questo festival, in questa edizione, abbiamo tanti gruppi che hanno fatto split con gli Jacobs, ma gli Jacobs stessi ci mancano. E cercheremo di rimediare in futuro. Questo è un messaggio subliminale agli Jacobs, che magari non ascoltano, però... Metti ciao. Mai ascoltassero. Ciao. L'influsso è stato lanciato nell'etere, quindi... E poi abbiamo anche i Wars Nation della Francia, sono un altro gruppo grande tra quelli di noi, perché ultimamente la Francia sta sfornando molti gruppi interessanti, tra i quali sono anche, menziamo, i Chance e i Doom Sisters, che sono due gruppi che avremmo voluto portare quest'anno ma non abbiamo più potuto portare. Ma invece gruppi di Roma? Di Roma abbiamo molti gruppi con una certa anzianità alle spalle, diciamo. Abbiamo gli Airlines of Terror, che sono un gruppo grind che è attivo da tanti anni sulla scena. Ultimo disco da paura? Sì, decisamente bello, infatti salutiamo anche loro. Abbiamo gli Anti-U, che vabbè, penso che conoscano un po' tutti, che sono di gran lunga il gruppo hardcore romano più famoso all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. I Buffalo Grills, anche loro molto conosciuti all'estero, cioè già per dire che hanno suonato anche all'Obscene, tanto per dirne una. Però loro sono in maniera convinta anti-vegani. Lo sai, vero? Lo so, vabbè, ma purtroppo per loro la scena sarà assolutamente vegan sabato, quindi peggio per loro. Prima in esclusiva per i Buffalo Grills, insomma. No, faremo delle bistecche finte, delle fiorentine di soia, apposta per loro. Questi ce li riascoltiamo da capo? Sì, volentieri. Needful Things. Dalla Repubblica Ceca, Shiva Yoga con Hipster Jugend. Molto esplicativo, immagino che siano abbastanza contrari alla deriva hipster, ammesso che ce ne sia molta Repubblica Ceca. Ci risulta un po' difficile da immaginare, visto che comunque in un paese dove queste sonorità vanno veramente per la maggiore. Tu ci sei stato di recente, mi pare. Sì, quest'estate sono 3 anni di fila che ci vado, perché quest'anno ho suonato all'Obscene Extreme con i Dilution, che tu hai passato a inizio trasmissione, e poi ci sono tornato per il Fluff Fest con i Cat Mosh, abbiamo suonato lì con loro, e invece i 2 anni precedenti siamo andati a suonare in tour con i Cat Mosh. Abbiamo fatto un tour che ha toccato per la... quasi sempre Repubblica Ceca e Germania, e ci abbiamo fatto parecchie date, infatti è una nazione fantastica dove andare a suonare, veramente gente da paura, sempre tante persone ai concerti, bella partecipazione. Poi l'attitudine Grain in realtà è molto tranquillona, alla fine concerti di questo genere si sta in tranquillità totale tra... Sì, ma infatti è questo il motivo che ci permette di chiamare gruppi che sono attivi anche da 20 anni e poter sostenere una cosa del genere anche economicamente, perché sono gruppi che comunque non hanno assolutamente atteggiamenti da rockstar commerciali, insomma. Assolutamente no, per dire, proprio parlando di Full Things, sono attivi da 20 anni e anche loro, cioè, non, comunque sono disponibili a spostarsi, cioè, per cifre che sono molto minori di quello che uno potrebbe pensare, e sono uno dei 3-4 gruppi grand più famosi che stanno in Europa. Abbiamo questo vantaggio, diciamo, cioè, sono molto abituati al do it yourself anche loro in questo caso. E, da quando c'è, insomma, il GoFest, quando è nato? Qui passerei la parola a Daniele ed Andrea, visto che sono i miei partner in crime e sono anche più preparati di me da questo punto di vista. La prima edizione l'abbiamo fatta nel 2011, perché noi, l'idea era nata perché ci siamo conosciuti da pochi a Pompeo e c'era questa voglia comune di fare un festival che fosse incentrato tutto sull'hardcore veloce, perché a Roma sono sempre fatti eventi legati magari a lui oppure all'hardcore più melodico, ma mancava qualcosa che unisse questa scena. Inizialmente pensavamo di fare solo roba italiana, siamo partiti in maniera molto più limitata nel 2011 con la prima edizione, e poi abbiamo fatto l'altra, come c'era anche Andrea, nel 2013. Sì, io mi sono unito alla banda nel 2013 e da lì abbiamo lasciato un po' la deriva di gruppi solo italiani e ci siamo buttati anche sull'estero. L'anno scorso abbiamo avuto il piacere di portare in Italia i Sick Tired, che comunque sono un gruppo americano che lo scorso anno è stato anche al Maryland Death Fest, che è l'evento chiave in questo tipo di genere, e sono venuti anche da noi insieme anche ai Corrupt Moral Altar, che sono un gruppo un po' più lento ma sempre molto valido inglese. Non c'è da pensare che la musica che viene passata, che passa per il GoFest, sia necessariamente tutta veloce, cioè, ci spostiamo anche a volte su generi un po' più lenti ma sempre molto malati come sonorità, come per esempio lo sludge, quindi siamo anche abbastanza vari da questo punto di vista per quanto in fissa con la velocità. Ma vogliamo ricordare pure i posti dove si è svolto il GoFest nelle scorse edizioni? Beh sì, i posti dove si è svolto il GoFest nelle scorse edizioni è un posto che a parere nostro è il cuore di questo tipo di musica a Roma, che è il Bencivenga, che non smetteremo mai di ringraziare per la collaborazione estrema che ci ha sempre fornito. Sono dei grandi. Quest'anno ci siamo spostati a Spartaco e grazie anche a loro, perché si stanno dimostrando veramente di una disponibilità difficile da trovare in giro, anche nell'ambito dei centri sociali, dove comunque trovi una disponibilità e una capacità di capirsi sicuramente non paragonabile a quella del mondo dei locali. Però devo dire che noi in Bencivenga praticamente ci sentivamo a casa. Spartaco sono riusciti a non farci sentire più di tanto la mancanza della nostra location abituale, e li ringraziamo anche per questo. Grazie a Bencivenga e grazie a Spartaco, perché senza di loro comunque non sarebbe possibile fare una cosa del genere, senza la loro disponibilità. Facciamo a casa di Zennaro probabilmente. Sì. Con Zennaro in costume, vi ricordiamo che a 666 partecipanti sull'evento del GoFest verrà pubblicata una foto inedita di Daniele in costume, quindi non ve la perdete questa occasione. Siamo a gente che pagherebbe anche tanto. Siamo a 654, solo 12 persone. Occhio che se non uscite le 12 persone la dobbiamo vendere a Novella 2000. Aia. Noi continuiamo con la scaletta, 21:49. Siete sempre all'ascolto delle 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è l'appuntamento del giovedì. Do It Yourself Invasion. Noi continuiamo con la scaletta proposta da Pompeo. In questo momento stiamo sentendo gli NTU, altro gruppo che parteciperà in serata al GoFest. E vabbè, gruppo che ha bisogno di ben poche presentazioni. Diciamo romani, ma in questo momento uno di loro vive a Londra e quindi dovrebbe essere arrivato a Roma. Oggi arrivava. Infatti, quindi salutiamo per Luigi, dovrebbe essere in aeroporto probabilmente in questo momento. E noi ce li riascoltiamo da capo, Anti You. Abbiamo un ascoltatore in diretta. Mi sta a venire mal di testa con tutta sta musicaccia che è stata a passare stasera. Vabbè, insomma, questo ascoltatore è un po' della vecchia scuola di hardcore storico italiano. Ciao ascoltatore. Io volevo salutare Pompeo e tutti quelli che mi conoscono. Niente. E sembra deve essere una bella serata quella di sabato. Diceva Yoga, me li ricordo, li feci anch'io qua a Torino un po' di tempo fa e spaccavano di brutto. Teneteli a mente perché sono regolari, insomma. Vabbè, ciao a tutti! Ciao Fabrizio! Così. Madonna, che allegria, vabbè, oddio, cioè veramente un po' di presa bene, no? Mai. Allora salute di Snaz. Ah, ok, sì, perché io e Pompeo abbiamo questa sfida aperta sui Disnuts, che vabbè, lui non sopporta. No, io volevo fare così, volevo salutare tutti quanti velocemente e volevo fare una domanda ai ragazzi in studio, che poi alla fine secondo me tutta questa cosa che voi chiamate power violence e cose di questo genere non è nient'altro che il crust, diciamo, portato il crust un po' più moderno, comunque che si va a influenzare con magari roba un po' più estrema, giusto? Come la vedete voi? Fabrizio, ci sono delle facce esterrefatte qui in questo momento. No, perché ad esempio a me è sempre piaciuta, per dire, negli anni 90, a metà arrivò questa ondata, almeno qua, per quanto mi riguarda, vidi un'ondata di crust dai paesi del nord che comunque fece scalpore, no? Gli stessi, per dire, che ne so, i Wolf Brigade più altra gente, no? Comunque a quei tempi fece abbastanza stupore, no? Guarda, io tra i tre sono l'unico che è un po' più affine a questa roba che stai dicendo tu. Gli altri due mi odiano perché sono affine a questa roba qua, quindi non lo so, spesso e volentieri me la buttano sul non capisci assolutamente un cazzo, quindi in realtà sì, c'è una certa affinità, ma fino a un certo punto secondo noi, in particolar modo secondo loro. Io fino a un certo punto mi associo a te, è solo che loro mi blastano tantissimo su questa cosa, quindi è un conflitto io mi ricordo un gruppo di che vidi alla Cascina Occupata qua a Torino, posto che non esiste più, che si chiamavano per uscire fuori dai nomoni, no? Tipo quelli che ho tirato fuori prima, no? Tipo i Wind of Pain, che era un gruppo, mi sembra, svedese, faceva crust, che c'era un bassista che era vestito tipo un figlio dei fiori, no? Quindi cos'è l'elefante, ma facevano crust. E ritrovo molto dei suoni, non so se lo conoscete, perché è un gruppo abbastanza, non dico di nicchia, comunque abbastanza semi sconosciuto. Mi ritrovo molto comunque nei suoni che poi hanno i gruppi che stiamo ascoltando, no? Nel senso, comunque. No, io invece stavo pensando un'altra cosa, no? Prima è stato presentato il GoFest, insomma, come un'iniziativa che va ad abbracciare, insomma, a toccare diversi generi musicali tra loro, tutti uniti, così poi arriva la telefonata di Mastello e li divide. Esatto. Ma non è che li divide, ma no, ma sì, sì. Comunque abbiamo le differenze. Nelle due edizioni fa abbiamo fatto suonare anche Disforia, quindi un gruppo crust almeno l'abbiamo Adesso non stavo parlando di il GoFest, suonano anche gli Anti-You, cosa c'è di più a punk hardcore degli Anti-You, cioè non è quello il discorso, però so che comunque almeno a Pompeo è preso bene, e giustamente ci suona pure con il Power Violence, che è una nomenclature che sinceramente per me conta fino a un certo punto, perché appunto quando ascolto certi gruppi poi ritrovo delle cose, anche sono questo bassone potente, no? Che si sente negli stacchi, negli stop and go, tra virgolette, di questo genere. Comunque è molto più vicino a un suono del primo crust degli anni 90, capito? Cioè, è quello che volevo dire. Alla fine comunque è un'evoluzione, o no? Posso dire, in realtà no, conta che c'è un gruppo attuale inglese che ha fatto una canzone che si chiama Power Violence 1 Neocrust 0, quindi tecnicamente andiamo anche in totale opposizione con il Neocrust, i Wolf Brigade e quelle cose là. Va bene, no, era giusto perché comunque io, cioè almeno per me, poi vabbè, è appunto la musica, ognuno se la diciamo classifica in base ai gusti e alle preferenze, non in base a etichette o nomenclature, cose di questo genere. È perché giustamente comunque è venuto fuori molto, si sente questa cosa, no? Che genere fanno quelli? Ma Power Violence, e tu rimani un po' nel senso stupito. Io all'inizio rimanevo molto stupito a sentire che ci fosse questa ennesima etichetta su una roba che appunto che per me di base, poi ovviamente le cose sono belle perché sono varie, se non avariate, nel senso che e quindi volevo sapere la vostra. Grazie, è sempre bello sentire una voce da persone che si sbattono per comunque portare avanti un'attitudine, un festival che è arrivato comunque alla quinta edizione, insomma. Va bene, grazie Mastello della telefonata. Va bene, comunque i Detonati sono fighissimi, Pompeo. Sono tamarrissimi, sono molto fighi, guarda, secondo me con loro ti divertiresti. Una serata con i Detonati, adesso facciamo un concorso solo per te. Dai, e la prossima volta ti vogliamo a Roma quando si rifà il festival, Va bene. Dai, ti aspettiamo, bella Mastello. Ciao, bella, ciao, buona continuazione. Dai. Vabbè, noi ci apprestiamo alla chiusura di Do It Yourself Invasion. Ci abbiamo qualche altra proposta? Facciamo sentire i Fucking Blood, direi, a questo punto. È un gruppo che abbiamo inseguito tanto nel corso degli anni, perché è un gruppo che in pratica non è attivo in questo momento e suonerà abbastanza sul presto sabato, e ricordiamo che sono in parte gli attuali Sinon Se Desist, però in una formazione leggermente diversa. Facevano un grind punk che per cavallo degli anni 90 era all'apice del suo momento creativo a Roma, grazie anche all'etichetta sua di Paolo Petradia, che salutiamo anche lui. Vabbè, noi ricordiamo la ricetta per sabato. Allora, che fare? Passare alla SNIA, magari a cena, siamo noi con l'iniziativa. Arsa da Cornuto, arsa nel vento! Magari fare quattro salti con gli scasso, perché no? Bere un paio di birre o più e poi arrivare carichi allo Spartaco, perché tanto il concerto dura fino a... non so, non ci sono limiti d'orario, mi pare di capire. No, ma noi fino a che ora dura non ve lo diciamo, perché tanto se vi diciamo che finisce alle 2 vi presentate alle 2 perché pensate che inizi alle 2, quindi noi non ve lo diciamo. Andate a fare quattro salti a Radio Onda Rossa, giustamente ce n'è lì, sentite un pochettino gli scasso, poi lo so, così verso le 10, 11, chi va prima da noi, pare di andare, insomma, fate come volete, tempo di per passare da entrambi i posti se ne trova. Scuse per restare a casa non ne avete? No, scuse per restare a casa. Cioè, non potete rimanere a casa. Dai, allora, chiudiamo con i Fucking Blood. Ok, che salutiamo, ciao Greg. Fucking Blood, da capo. Due minuti passate le 22 prima di lasciarvi all'apostasia, la trasmissione che va a chiudere il palinsesto del giovedì. Noi ringraziamo Pompeo e tutto lo staff del GoFest. Grazie a voi per l'ospitalità. Io a questo punto volevo concludere il discorso di Mastello tirando un altro parere sulla questione power violence come genere, detto un po' di tempo fa da una persona che non dirò chi è, ma che bazzica per giri di Roma. Dice: vabbè, ma il power violence alla fine è quel genere dove sei troppo bravo e ti rompi i coglioni a suonare grindcore, ma sei troppo scarso per suonare thrash metal. Quindi, come dire, ognuno c'ha proprio la sua visione delle cose sulla classificazione della musica e sui generi. D'altra parte non stiamo a fa chimica, quindi tutto a posto, niente nomenclature. Ciao e grazie dell'ospitalità. L'importante è suonare male e veloce, quello si va sempre bene. Benissimo. Bene, ne approfitto giusto per salutare i gruppi di cui non abbiamo fatto in tempo a parlare, Humus dalle Marche, che verranno e suoneranno abbastanza sul tardi, e i Veranos Dogs, che sarà un gruppo che esordirà sabato in apertura, che capitanati da Massimetto. E non lo sapevamo da queste parti, hai capito? Gruppo no, composto da Massimetto, Pablo Ubi. Grind? Death Metal. Ah. Death grandeggiante, diciamo, sarà una bella sorpresa. Sono uno dei gruppi più pesanti che ha mai suonato al GoFest finora. Va bene, insomma, ci vediamo sabato. Grazie ancora. Ciao, grazie. Ricordiamo un po' di appuntamenti dei prossimi giorni. Alle Cagne Sciolte il 16 ottobre, domani. Karaoke Queer Caracia. Dalle ore 22 prepara il tuo cavallo di battaglia, porta la tua richiesta. Il compleanno di Strike questo venerdì 16 ottobre. Con The Dirty Jobs, Motosega, The Steel Fingers e Godzilla. Quindi l'appuntamento è a giovedì prossimo dalle ore 21. Un saluto a tutte e a tutti. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della loro libertà personale. Rimanete sintonizzati perché a tra poco Apostasia.